teri hasrat ho ya ibadat ho tujhko pana hai jo bhi surat ho har taraf sach mein sab ki chaahat ho lafz na ho pyar balki aadat ho Oh, atur janur kurja gata.